A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Dopo una certa ora, i custodi di Pompei diventano le prostitute e i loro clienti. Quando cade il sole e chiudono i cancelli del sito archeologico più importante al mondo, sono le squillo, di fatto, le inappropriate vestali dell'area intorno all'antica città romana, raggiunta il più delle volte dopo un avventuroso viaggio in circumvesuviana e uno slalom tra residui di immondizia, commercianti abusivi e i tradizionali cani randagi, immancabili guide di turisti di tutto il mondo, tra regiones, insule e domus. Anche questa è Pompei, che da quando è riemersa dalle ceneri del Vesuvio del 79 d.C. continua a fare i conti con una precarietà ambientale, potremmo dire, di tutt'altra natura. E a lungo, più che il Vesuvio, le hanno fatto ombra di recente le notizie dei crolli, 29 in 5 anni, di furti e sfregi, di inchieste sugli sprechi e pure l'ombra della camorra nelle forme del clan locale dei Cesarano. E gli appetiti dei boss si sarebbero risvegliati ora che sulle preziose domus stanno arrivando i milioni del grande progetto Pompei, missione finalmente complessiva per un piano organico di messa in sicurezza dell'antica urbe. Dal 5 maggio è operativa la squadra affidata alla generale Giovanni Nistri, già alla guida del nucleo di tutela del patrimonio archeologico dei Carabinieri, scelto dal ministro per monitorare gli appalti da assegnare per le singole aree. La scadenza è il 31 dicembre 2015 e al momento, come sentirete in questa puntata di A Ciascuno il Suo, solo per la metà circa dei finanziamenti il percorso a vario modo è stato avviato, sia pur con spie tutte da verificare, come dei ribassi fino al 55%. Più volte si è paventato il rischio di revoca o della richiesta di una proroga per i finanziamenti europei e allora il generale Nistri non si sbilancia sulla possibilità di riuscire a rimettere fino in fondo nuova linfa nelle vene di questo malato in coma. Parlare di malato in coma, francamente non me la sento. Certamente ha grandi problemi, altrettanto... Certamente è un sito meraviglioso. Questo nessuno lo mette in dubbio, però i crolli sono l'apice di una serie di problemi che si sono accumulati nel tempo a Pompei. Sicuramente si sono verificate tutta una serie di disfunzioni. È anche vero che la partenza di questo grande progetto Pompei è il frutto di una particolare attenzione che comunque prospetticamente è rivolta a questo sito per la sua importanza, per il suo valore assoluto, ed è anche una soluzione, diciamo, sotto un disegno unitario per rimettere in piedi quel paziente che lei dice essere stato in coma. Possiamo dire, con un'espressione che è abbastanza cara al Presidente del Consiglio, possiamo dire che forse questa è davvero la volta buona per Pompei? Come ha detto il Ministro Franceschini, i conti si fanno alla fine. Il progetto sarebbe quello di arrivare entro fine 2015 a utilizzare i fondi che sono stati già anche stanziati, i famosi 105 milioni totali, di cui una buona parte anche già finanziata dall'Unione Europea. Più volte è stato rilanciato il rischio che non si riesca entro quella data ad utilizzare tutti i fondi. È possibile, secondo lei, allo stato dell'arte, una richiesta di proroga rispetto a quella scadenza? Evidentemente sono competenze di sfere ben superiori alla mia, ammesso che sia questo l'intendimento. Si cercherà di fare di tutto per ottenere il massimo possibile. Mi piacerebbe poter dire faremo tutto, però riagganciandomi a quel senso di concretezza di cui parlavo prima, dico semplicemente aspettiamo di vedere la fine e alla fine tireremo la linea e faremo i conti. Sempre un tema molto difficile da comprendere all'esterno, del perché si faccia così tanta fatica ad utilizzare dei soldi che sono già stanziati. Però prima di chiederle questo vorrei chiederle un po' un quadro sullo stato dell'arte. Lei sappiamo già che ci sono dei lavori per alcune regiones che sono già avviati, che dovrebbero terminare entro il 2015, altri che sono stati già stanziati casomai in maniera provvisoria, altri che sono in itinere. Ma è possibile dire in questo momento un totale, diciamo, di milioni che sono stati già assegnati? Per quanto concerne il piano della conoscenza, originariamente vedeva appostati 8 milioni e 200 mila euro. Bene, tutti gli 8 milioni e 200 mila euro sono andati in gara, nel senso che ci sono due gare in corso. Riguarda, diciamo, lo studio dell'arte dei singoli anche manufatti per programmare, giusto, mi corregga se sbaglio, gli interventi, diciamo, da fare, una programmazione prospettica. Una manutenzione programmata. Esatto, è paradossale immaginare che non ci fosse già un piano di questo tipo, ma questo è. Per quanto riguarda invece i lavori di restauro, è possibile avere una cifra? Una precedente intervista, proprio mi sembra fatta con lei, il sovrintendente Osanna ha voluto chiarire. Esatto, ne parlavamo proprio in A ciascuno il suo. In precedenza non è che magari non si pensasse a un discorso, si pensava forse era diverso, forse in maniera più settoriale, no? Quindi rimanendo nel piano delle opere, ora come ora i cantieri attualmente aperti che sono 6, un settimo è chiuso ancorché manchi ancora il collaudo, ma insomma questo blocco, diciamo così, di interventi ha avuto un importo di gara di 10 milioni e un importo di aggiudicazione di 6 milioni e mezzo. Ecco, poi c'è tutta una serie di gare già aggiudicate e aggiudicate definitivamente. Riguardano la messa in sicurezza di 3 regioni, la sesta, la settima e l'ottava. È possibile avere un calcolo d'insieme? Per questi altri lavori in cui le gare sono sostanzialmente concluse con l'aggiudicazione definitiva, il porto di gara si aggira sui 19 milioni e mezzo. Ora con l'aggiudicazione definitiva si tratterà probabilmente di altri 13 milioni di spesa. In totale siamo grosso modo in un ordine di grandezza di 38 milioni circa di euro per il piano delle opere, però c'è quello della conoscenza. Deve aggiungere gli 8 milioni e rotti del piano di conoscenza di cui abbiamo già parlato. E altre cose, insomma. Intorno sotto ai 50 milioni, diciamo così, che però sono ancora al di sotto della metà rispetto ai 105. Lei prima parlava dei ribassi. Ci sono state anche un po' di polemiche per dei ribassi che sono arrivati anche al 50% su certe gare d'appalto. Non la preoccupano un po' dei ribassi così forti? Diciamo che il dato del ribasso effettivamente è un dato che, preso così in astratto singolarmente, può prestarsi a tante interpretazioni. Mi risulta che comunque ci sia una serie di attività condotte dall'autorità giudiziaria e dalle forze dell'ordine. Questo mi conforta. Vorrei anche ricordare comunque che tutto il grande progetto Pompei è assistito da un protocollo di legalità stipulato con la prefettura di Napoli e col ministro dell'interno, di tal che ogni passaggio della gara viene comunque vagliato da un gruppo di legalità composto da varie professionalità, diretto da un prefetto della Repubblica che comunque ha un occhio superiore. Questo senza alcun dubbio, però sappiamo perfettamente come i ribassi siano, quando sono forti, sempre spia di una anomalia. Pompei non sta in Svezia, diciamolo esplicitamente, sta in un contesto sociale e anche, diciamo, giudiziario non semplice, dove ci sono anche state già delle attenzioni da parte della Procura di Torre Annunziata su un rischio di infiltrazioni camorristiche. Certamente è un dato da valutare con molta attenzione ed è un dato su cui eventualmente fare valutazioni di natura diversa anche sulla tipologia eventualmente di gara da poter individuare. Insomma, bisogna andare a vedere se è tutto di volta in volta se è tutto, diciamo, lineare quello che è avvenuto anche rispetto a questi ribassi già stanziati. Ecco, generale, vorrei chiederle una cosa a proposito delle procedure, dei protocolli e anche rispetto al discorso del tempo che facevamo prima. Ma questi protocolli e tutte queste procedure, anche quelle richieste anche dai vari certificati anticamorra, insomma, rallentano e possono essere anche un po' una delle cause dei tempi lunghi per arrivare all'assegnazione poi di questi lavori? Non c'è dubbio che i singoli passaggi impegnano del tempo. Bisognerebbe un po' snellirli, secondo lei? Allora, intanto c'è da dire che comunque a volte è molto labile il confine tra la burocrazia e l'esigenza di legalità e di trasparenza. Certo. La richiesta del certificato antimafia, cos'è? È burocrazia o è un controllo di legalità? Comunque certamente si può cercare da un lato proprio di ridurre determinati tempi morti. Si sta avviando un procedimento, diciamo, che consentirà di ridurre notevolmente questi tempi, perché si potrà in via telematica acquisire direttamente da questa piattaforma i dati necessari per il completamento di determinate documentazioni che sono previste. Forse in qualche modo cercare di snellirla un po' questa burocrazia e tutto questo iter necessario anche a tutela della destinazione ultima di questi finanziamenti potrebbe essere opportuno. Mi sembra che questo sia peraltro anche un po' l'intendimento, diciamo, in generale del governo. Quante volte la burocrazia e i complessi iter di controllo non sono riusciti comunque a tenere lontane le infiltrazioni dei boss, mettendo invece di sicuro in fuga eventuali finanziatori privati? A ciascuno il suo. Il 31 dicembre 2015, al momento dei 105 milioni del grande progetto Pompei, solo un po' meno della metà, come è stato ricostruito nella prima parte di A Ciascuno il Suo, è stato già assegnato con gare definitive o in itinere per lavori di restauro o finalmente per un lavoro di conoscenza che permetta poi una programmazione ragionata della manutenzione. Ma quando si parla di Pompei tutto diventa più difficile e a volte quello stesso percorso creato per garantire che i soldi vadano effettivamente a Pompei e non alla Camorra, ad esempio, rischia di diventare una trappola che rallenta e casomai allontana anche eventuali finanziatori privati. Ripartiamo da qui col generale Giovanni Nistri, appena entrato effettivamente in azione dopo la nomina a direttore generale del grande progetto Pompei, la missione per salvare il sito archeologico più famoso e importante al mondo. Sul concetto dei primati, dei finanziamenti, questo è un discorso un po' diverso. Cioè, da un lato il signor ministro Franceschini ha detto a chiare note che sta per l'appunto valutando l'ipotesi di una convenzione quadro che consenta compartecipazioni pubblico-privato nell'ambito del settore culturale, un po' prendendo per esempio un po' a spunto anche la convenzione di Ercolano. Con la Packard, e ci sono tutta una serie di norme che chiaramente possono incidere anche sulla volontà del privato. Se si parla di sponsorizzazioni, la liberalità pura per esempio ha altre regole, tutto sommato regole molto molto più facilitanti, diverse, ecco. Cambiando aspetto, ecco, generale, lei adesso è arrivato appunto a occuparsi del grande progetto Pompei dopo anni in cui in realtà, diciamo, ci sono stati anche diciamo molti milioni spesi, perché i soldi a Pompei, un po' perché arrivano dagli stessi turisti, un po' perché ci sono sempre stati, molti milioni spesi in diciamo restauri a volte contestati, in operazioni anche di marketing non sempre necessarie. Cioè, ci sono stati secondo lei un po' degli sprechi accumulati quando Pompei in fondo ha soprattutto bisogno di essere conservata più che infiocchettata, diciamo, mi passi il termine? Quando si parla di sprechi poi si fa riferimento anche a responsabilità e diciamo di soldi spesi con altre priorità. Diciamo che probabilmente sì, e bisogna ancora una volta intendersi su che cosa si intende per infiocchettamento. Cioè, cerco di spiegarmi. Uno dei settori, anche se poi li chiamiamo piani, in cui si articola il grande progetto Pompei è un piano che in realtà deve essere ancora tutto valutato e tutto articolato, un piano che riguardi la fruizione e la valorizzazione. Facevo riferimento a operazioni del passato, di una, diciamo così, grandi operazioni di marketing, spese in show o piuttosto che in... A parte che su alcune di queste attività sono in corso procedimenti penali, per cui esatto, posso astenermi da ogni valutazione a riguardo. Però c'è da dire questo, che per esempio esempio è molto avvertita dalla comunità locale, insomma, dalla la possibilità di tenere degli spettacoli teatrali certamente di livello all'interno del sito archeologico. Ma quello va benissimo, quello va benissimo, diciamo, l'utilizzazione e anche, diciamo, il contatto sempre maggiore di un posto particolare, unico, come Pompei, con il mondo circostante va sempre bene, è che a volte in passato per questo genere di operazioni diciamo ci si è forse dimenticati di conservare e di rispettare e di preoccuparsi anche di quelle della struttura, ossia di Pompei, se si considerano che ad esempio soltanto adesso sono arrivati delle nuove squadre di archeologi e fino a poco tempo fa ce n'era un numero che era a dir poco ridicolo. Generale, andando velocemente verso la conclusione, lei arriva in un momento che è stato un momento difficile a dire poco. Negli anni scorsi il famoso famigerato crollo della scuola Armaturarum, 29 crolli in 5 anni a Pompei, non mancavano le polemiche sui cani randagi, sono arrivati anche i furti, compreso quello dell'affresco di Artemide nella Domus del Nettuno. Che idea si è fatto anche rispetto a questo furto? Allora, per quanto concerne i crolli, bisognerebbe fare una distinzione tra un crollo importante come certo la scuola e altri 2010, che sono più piccoli, e magari il crollo di un manufatto, diciamo, frutto di un restauro di tempi moderni. Insomma, cerchiamo di riportare in sicurezza, e i lavori che si stanno svolgendo anche questa funzione hanno, cerchiamo di portare in sicurezza il sito nella sua interezza. Sotto il profilo dei cani randagi non mi esprimo più di tanto, anche perché a fronte di una come dire ondata contraria ai cani c'è poi stata un'ondata di ritorno contraria a chi era contrario ai cani randagi, quindi anche lì bisogna sempre cercare di articolare, di mantenere un po' di equilibrio in un senso o nell'altro. Problema dei furti. Ora, in effetti si è verificata questa avulsione di questa parte di affresco, probabilmente non essere proprio un furto su commissione. No, quindi, pare sia stato anche abbastanza semplice, diciamo, il modo in cui è stato portato via. Ho letto anche che magari qualcuno ha parlato anche addirittura non di furto ma di sfregio e di danneggiamento. Qua il concetto è, fermo restando che entro il mese corrente, se tutto andrà come sembra che vada, partiranno le gare per la nuova recinzione dell'intervento, la nuova illuminazione perimetrale e la nuova videosorveglianza che riguarderà il perimetro, ma riguarderà anche alcune domus interne, ovviamente non tutte, è ovvio. Una città dell'estensione di Pompei può capitare. Ora, se noi da un lato cerchiamo di avvalerci di queste nuove gare che comunque sono comprese nel grande progetto Pompei e che comunque partiranno, se ci inseriamo poi anche sicuramente, credo, uno dei vari compiti previsti dalla legge è anche quello di rivedere con la soprintendenza e con le rappresentanze sindacali della soprintendenza, di cercare un po' anche di rivedere nel complesso è quello che è l'organizzazione dei servizi e quindi anche dei servizi, diciamo così, di vigilanza. Nessuno può assicurare che non viene fatto un altro furto. Lei consideri per esempio che ci sono molti cantieri aperti o molti cantieri di studio dove ci sono cassette di poste all'interno dei locali con dei reperti. Reperti che arrivano da Pompei e che non devono essere rubati. Certo, l'ultima cosa che le chiedo, generale, è questa. Io ho un po' l'impressione che con questo nuovo progetto, il grande progetto Pompei, giustamente e finalmente si dia un segnale, diciamo, anche di cambiamento, ma che diciamo fino adesso c'era una situazione, uno status quo che va un po' scardinato a vari livelli. Forse anche da questo punto di vista bisogna dare un segnale diverso. C'erano guide che non erano autorizzate, cioè succedeva un po' fino a un po' di tempo fa, ecco, con Pompei era anche questo. Come sempre non è l'intervento solo l'intervento delle forze dell'ordine, solo l'intervento istituzionale, o ecco, non sono solo interventi unidirezionali e possono risolvere una situazione ambientale, una situazione complessiva di consumo, deve essere un po' la mobilitazione e soprattutto il convincimento di tutte le forze di un territorio, a cominciare dalle comunità vere e proprie, a poter modificare. Allora il concetto è: Pompei, il sito archeologico è un patrimonio dell'umanità, perfetto, vogliamo Chi è che deve volere il bene del patrimonio dell'umanità? A parole va bene tutti, nei fatti solo il singolo soprintendente, solo il singolo custode, faccio per dire, o deve o il singolo cittadino, oppure deve essere un'azione di tutti. Allora, e per questo che è necessario che un po' un cambio culturale, no? Appunto, ma l'aspetto culturale, inteso in senso molto, molto lato, non può mai essere affrontato da un solo punto di vista e ci deve essere la consapevolezza da parte di tutti che probabilmente se, faccio per dire, guadagno un po' di meno in certi atteggiamenti, diciamo, un po' più scorretti, guadagno un po' di meno nell'immediato, forse però posso in prospettiva guadagnare di più come comunità e come i figli che verranno dopo di me. Per riascoltare tutte le puntate di A Ciascuno il Suo, il sito è radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce, ricordate Storiacce, e sul blog Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto.